Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Dal 1 luglio in Francia è entrata in vigore la legge sul salario minimo, che prevede per i dipendenti delle imprese francesi e per quelli delle aziende straniere operanti nel paese le stesse regole sociali, tra cui l'attribuzione di una retribuzione minima. Il provvedimento riguarda anche il settore dell'autotrasporto e ha l'obiettivo di contrastare concorrenza sleale e dumping sociale. Gli autisti stranieri che effettuano consegne in Francia o che svolgono operazioni di cabotaggio, d'ora in poi devono compilare un'attestazione di distacco transnazionale, sul modello di quanto avviene già da più di un anno in Germania, dove è in vigore una legge simile. Anche in Austria esiste l'obbligo di una retribuzione minima. E in Italia? Il tema è molto dibattuto fra le associazioni di categoria che chiedono misure in questa direzione sia a livello nazionale sia comunitario. Da Bruxelles però arrivano segnali contrastanti. La Commissione europea infatti ha appena aperto una procedura di infrazione contro la Francia con l'accusa di minacciare la libera fornitura di servizi e la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri. Lo stesso trattamento era stato riservato alla Germania nei mesi scorsi. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E come avete ascoltato dalla scheda iniziale, la Francia ha introdotto una nuova disciplina, una nuova legislazione sul lavoro che tocca molto da vicino anche tutte le altre imprese dei paesi europei, la cosiddetta legge Macron, che stabilisce un salario minimo uguale per tutti coloro che poi in qualche modo lavorano in Francia. Un provvedimento che ha delle conseguenze pesanti per le imprese di autotrasporto italiane. Ne parliamo oggi in compagnia dei nostri ospiti. Vi presento il primo, Louis Guarinot, vice caporedattore dell'Officiel des Transporteurs, che è il più importante settimanale francese dedicato al mondo dei trasporti. Buongiorno Louis. Allora, cosa sta succedendo in Francia? In cosa consiste questa legge Macron? Buongiorno Massimo, diciamo che questa legge Macron, che adesso diciamo dal 1 luglio che la legge è applicata, è un po' complicata per le aziende francesi. C'è un problema legislativo, perché questa legge dice che lo stipendio deve essere lo stipendio francese per le aziende straniere che operano nel paese. Certo. Quindi, per semplificare, se un'impresa italiana viene a lavorare in Francia deve riconoscere comunque ai suoi dipendenti lo stesso stipendio che si riconosce in Francia ai dipendenti francesi, corretto? Esatto. E dunque, infatti, questo è lo soggetto generale. E poi adesso c'è il problema francese, che anche esiste in Italia, il problema del cabotaggio illegale, e dunque le aziende non capiscono veramente precisamente come il governo francese potrà controllare tutto lo stipendio al minimo francese. Dunque questo è il primo problema, direi. Il secondo problema è il problema della direttiva di distacco, l'attestazione di distacco che questa legge impone, e dunque è un problema amministrativo. Diciamo che le aziende non hanno veramente le informazioni precise dall'amministrazione centrale dell'autotrasporto. E certo, come tutte le leggi di nuova introduzione, anche in Francia, così come ovviamente anche in Italia, c'è qualche problema interpretativo. Amedeo Genedani, presidente di Unatras, la confederazione di associazioni di categoria dell'autotrasporto italiane. Il primo è che ci piacerebbe anche a noi applicare una legge simile anche in Italia per bloccare in qualche modo il cabotaggio illegale. È così? Senza ombra di dubbio, noi è da alcuni anni che chiediamo anche allo Stato italiano di intervenire sul cabotaggio abusivo e sul dumping sociale che tutti subiamo, però purtroppo in questi ultimi 3 anni non si è fatto più di tanto in Italia. Apprezziamo la Francia che ha portato avanti questa normativa, che non sarà sicuramente difficile da applicare, sarà già contestata dalla Commissione europea, però io penso che almeno la Francia abbia dimostrato di voler difendere i suoi autotrasportatori. L'Italia non mi sembra che stia facendo questo. Oltretutto vorrei anche dire che il dumping sociale a livello europeo, soprattutto con l'entrata degli stati, i paesi dell'est, si tocca con mano in tutti gli stati membri dell'Europa, io direi che la colpa principale è della Commissione Europea, che non è mai intervenuta e non ha mai voluto fare niente nel merito. Quindi Francia si muove in un modo, Germania si muove in un altro modo, non in Italia avevamo provato la famosa inversione della prova. Certo, con altri provvedimenti normativi in grado di bloccare questo cabotaggio. Lui, mi sembra di capire che però le imprese di autotrasporto francesi non sono contente di questo provvedimento, che in realtà è nato per tutelarle. Adesso le ditte sono un po', diciamo, come in francese si dice, désemparé, sono un po' spiazzate, se non ho capito, sì. Se ho capito bene. Sì. Cioè. Spaventate, e dunque perché... Prima, come lo spiegavo, il problema amministrativo, diciamo, è certo. una vera ditta a gas, e poi c'è il problema politico. Quanto è forte la presenza di imprese di autotrasporto straniere, soprattutto dei paesi dell'est in Francia? La percentuale sarebbe già circa il 20-30% della, diciamo, del cabotaggio illegale. Però è molto difficile, anche l'amministrazione francese non è in grado di comunicare su una cifra precisa. Dunque, diciamo, abbiamo soprattutto le piccole ditte un dumping sociale del cabotaggio illegale, e dunque il problema è anche i controlli che l'amministrazione francese, perché i funzionari che controllano sono pochissimi. C'è anche il problema che non possiamo in Francia veramente controllare questo cabotaggio illegale, dunque c'è un problema anche di cifre ufficiali e poi di controlli, certo, che non possono essere fatti. Certo, Genedani, noi in Italia, come ricordava prima, abbiamo provato a bloccare, a fermare in qualche modo il cabotaggio illegale con una serie di provvedimenti, l'ultimo è l'inversione dell'onere della prova. Di che cosa si tratta e che efficacia ha avuto? Si tratta di una normativa che andava a far sì che l'autotrasportatore che fa cabotaggio in Italia mi doveva dare certi documenti e dimostrare di essere entrato nella tal data e quanti viaggi aveva fatto, soprattutto con... l'ausilio, diciamo, del cronotachigrafo, che doveva dimostrarmi di aver messo in Italia l'entrata, diciamo, nello Stato italiano, e quindi con delle sanzioni anche importanti. Io penso che avrebbe potuto portare un risultato anche questa inversione dell'onere della prova, quelli che citavo prima io, gli articoli 46, che oggi alla stregua di Guerre Stellari io li chiamo gli articoli 46 ter, bis e 46, quindi la saga dei 46, che però purtroppo a mio avviso non è stata applicata più di tanto dalle forze dell'ordine, o ci risulta in alcune aree ha portato dei risultati, ma aree, diciamo, minori. Quindi si era provato su questa strategia, che però non ha portato a dei grandi risultati. Cosa si potrebbe fare allora in più per bloccare questo cabotaggio illegale e tutti i problemi di dumping che ne conseguono? Sicuramente che la Commissione europea si muovesse, facesse una regola, diciamo, a livello europeo, che dia quel valore aggiunto che ci deve essere, quindi, cioè, all'interno degli Stati membri non ci sia la concorrenza che c'è, fare dei controlli di più, utilizzare in Italia il 46 ter, che a mio avviso oggi è pronto, sfornato, doc, quindi potrebbe portare sicuramente dei risultati, perché una sanzione di 5.000 euro, pagamenti in contanti, la prima volta il trasportatore la subisce, la seconda volta ci pensa a ricomportarsi come nella volta precedente. Louis Guarino, Genedani dice l'Unione Europea dovrebbe fare di più. In realtà quello che ha fatto l'Unione Europea è mettere sotto accusa la Francia e la Germania e comunque tutti i paesi che invece stanno cercando di fare qualcosa. Quale sarà la reazione della Francia a questa iniziativa dell'Europa? Infatti il governo francese, diciamo, non capisce questa reazione della Commissione Europea, della DG Move, no, precisamente, perché infatti non è in grado di spiegare veramente, anche con la Germania, da gennaio 2015 Bruxelles ha mandato una lettera di procedura di infrazione, ma sì. Per ora a Berlino il governo non capisce le cose che la Commissione vuole sapere. Dunque c'è un problema di comunicazione tra la Commissione Europea e la Francia e la Germania. E il secondo punto, come lo diceva il signor Genedani, penso che la Commissione potrebbe anche immaginare di creare un'agenzia europea di controllo per l'autotrasporto. Certi parlamentari a Strasburgo l'hanno messo sul tavolo, però il problema è che adesso c'è il problema dei crediti europei, che forse questa agenzia non verrà mai certo. Diciamo sì. Aperta. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Ringraziamo e salutiamo i nostri ospiti: Amedeo Genedani, presidente di Unatras, Louis Guarino, vice caporedattore dell'Officiel de Transporteur. L'appuntamento con Container ritorna sabato alle 13:15 circa. Prima di lasciarci, vi ricordo che questa è una trasmissione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Il nostro indirizzo email: container@radio24.it. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli